Do il benvenuto a Alberto Magnaghi, curatore del libro Quaderni del territorio, dalla città fabbrica alla città digitale. Benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie dell'invito. Allora, Alberto, innanzitutto, che cos'è questa rivista Quaderni del territorio? Ce la può raccontare? Sì, è una delle molte riviste nate negli anni 70 sull'onda del 68 e dei successivi anni caldi delle lotte operaie studentesche, ed è una rivista che affronta in particolare i problemi, appunto si chiama Quaderni del territorio perché nasce dalle facoltà di architettura, ma anche da altre facoltà, perché è una rivista multidisciplinare e che però si occupa nello specifico degli effetti delle lotte operaie, della ristrutturazione produttiva sull'organizzazione territoriale che assume il territorio un ruolo sempre più importante sia nella gestione dell'organizzazione capitalistica del territorio, della società, sia delle lotte operaie che dalla fabbrica tendono a spostarsi, a arricchirsi di tematiche relative alla qualità della vita nelle città, nelle campagne, nel territorio in generale. E quindi la rivista affronta i problemi proprio della trasformazione che in quegli anni avvengono con una chiave di lettura operaista, di cultura operaista, cioè che mette in primo piano il rapporto tra capitale e lavoro come molla della trasformazione, come elemento fondamentale della gestione della società, e quindi esamina, discute, compie analisi proprio sulle trasformazioni molto importanti che in quegli anni avvengono nell'organizzazione del lavoro, dall'organizzazione tayloristica della grande fabbrica verso due direzioni, quella del decentramento produttivo regionale verso appunto poi la città diffusa, la fabbrica diffusa, i distretti industriali, insomma verso la scomposizione del ciclo della grande fabbrica a livello regionale ma anche a livello mondiale. I quaderni del territorio hanno sezioni di studio molto importanti proprio sulle trasformazioni che portano i cicli di produzione dal cuore dell'Europa alla espansione mondiale, alla globalizzazione. E quindi una rivista che anche anticipa temi che poi si sviluppano negli anni successivi fino ad oggi, dove il processo di globalizzazione si è compiuto con tutti i suoi disastri e quindi ha anche una rivista, un valore anticipativo. La rivista è formata da collettivi universitari che allora si riunivano anche autonomamente con docenti, ricercatori, ma soprattutto con un rapporto di ricerca azione, cioè di rapporto con le lotte nella fabbrica, nel territorio e soprattutto nelle università, con la presenza attiva degli studenti che allora erano auto-organizzati e che, diciamo, utilizzavano i saperi che nell'università producevamo come collettivi universitari nel territorio dove militavano poi con la società locale. Quindi c'era questo rapporto diretto tra ricerca e azione sul territorio che si rifletteva poi sulla cultura della rivista e dei suoi risultati. Lei ha detto che appunto ha lasciato in qualche modo un'eredità culturale questi quaderni del territorio, tant'è che ne parlerete anche in una presentazione alla libreria Input in via Mascarella proprio in questi giorni. Qual è questa eredità culturale lasciata dai quaderni del territorio? Perché ne continuate a parlare? Ne continuo a parlare innanzitutto perché la casa editrice ha fatto quel Deriva Prodi, sta facendo questa utile riedizione di tutte le pubblicazioni collettive degli anni 70, però perché questi approfondimenti scientifici sulle trasformazioni di allora, di questi periodi importanti, hanno poi delle influenze successive anche attuali. Nella rivista, per fare un esempio, nel numero 4-5 c'è i risultati di un grande convegno fatto a dicembre del 77 al Politecnico di Milano, dove si esaminano tutte le trasformazioni della composizione sociale che portano dall'operaio, diciamo, del fordismo, dall'operaio massa della grande fabbrica, ad una composizione sociale di lavoro sostanzialmente precario nel territorio con la fabbrica diffusa, e riflettono tutto il patrimonio. In questo convegno viene riflesso il patrimonio del convegno che proprio a Bologna nel 1977, nel marzo, viene fatto. Più che un convegno, è una grande manifestazione, è una grande, diciamo, dimostrazione di come esiste un passaggio molto importante in quegli anni nel cosiddetto operaio sociale, cioè nell'articolazione di molte figure di lavoro che riguardano sostanzialmente il proletariato giovanile, che passa, diciamo, da una dipendenza totale di lavoro salariato a forme anche di lavoro autonomo, di auto-organizzazione in agricoltura, di movimenti come il movimento femminista che si comincia a svilupparsi, ma anche negli uffici, nel lavoro terziario, nella socialità. Pensate che a Milano nel 77 ci sono più di 200 centri sociali che non fanno solo attività politica, ma fanno artigianato, musica, produzione culturale, cioè si costruisce in quegli anni un mondo di autonomie e di riflessi della cultura del 68 che poi con gli anni successivi, della chiusura, della repressione, degli anni di piombo, vengono molto dispersi, ma poi ripresi nel lungo periodo. Ecco, la rivista in quel numero lì, per esempio, testimonia di tutto questo processo di trasformazione che poi negli anni successivi avrà grande sviluppo. Un altro aspetto importante è quello che dicevo prima, cioè quello di tutti gli studi che con il metodo nostro di interpretazione del conflitto sociale come molla della trasformazione, della ristrutturazione capitalistica, anticipa tutti quei processi che poi portano alla trasformazione globale del sistema produttivo mondiale e che vanno verso la mega city, l'urbanizzazione del pianeta, la globalizzazione economica e finanziaria soprattutto, e quindi anticipano, diciamo, processi di lunga durata attraverso un metodo che permetteva di prevedere in modo abbastanza chiaro le trasformazioni strategiche del capitale su scala sia regionale che mondiale. Questo è un lascito abbastanza importante, anche metodologico, che si è ripreso oggi nella complessità, diciamo, della trasformazione economico-produttiva, ma soprattutto finanziaria attuale del sistema globale in tutti i suoi sottosistemi, potrebbe avere ancora una sua validità metodologica, naturalmente cambiate le condizioni. Ecco, queste sono le principali, e poi infine anche tutta ovviamente la trasformazione del ruolo del territorio in questi meccanismi di trasformazione, dove il territorio acquista una funzione sempre più importante sia nella fabbrica diffusa, nella costruzione dei sistemi sociali di impresa come nei distretti industriali, ma anche nella composizione sociale e negli obiettivi di lotta, di trasformazioni sulla qualità dell'ambiente, della vita, dei quartieri, del territorio, oggi dell'agricoltura, del rapporto città-campagna, cioè quindi anche proprio sui temi territoriali ha anticipato parecchi temi che poi oggi continuiamo a sviluppare con la società dei territorialisti, con tante associazioni che partono proprio dallo sviluppo locale, dai temi del territorio, per impostare nuove battaglie anche di trasformazione della società in generale. fare. Perfetto Alberto, io la ringrazio veramente per averci parlato di Quaderni del Territorio e per chiunque fosse interessato ad approfondire meglio l'argomento, ricordo che questo mercoledì alle 17.30 alla libreria.input ci sarà appunto un incontro di presentazione. Grazie ancora. Benissimo, grazie a voi per l'invito a questa intervista, arrivederci, a presto.